9. Ascolta i testi e indica l'azione in svolgimento. 1. Quando sono arrivati qui, nevicava. 2. Sono caduti mentre andavano in bici. 3. Sono partiti mentre i bambini dormivano. 4. Quando siamo tornate, le luci erano spente. 5. Chi aspettavano quando li abbiamo visti?